Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, anche oggi in diretta dagli studi di Radio 24 all'Expo di Milano, nel padiglione del Cibuse Italia, vicinissimo al padiglione cinese, giapponese, così faccio capire a tutti. Anche oggi continuiamo a districarci nell'orientamento e in realtà anche oggi parleremo di settore alimentare. Questa mattina di nuovo tensioni al Brennero e nuove scoperte di prodotti che venivano inviati da vari paesi dell'Unione Europea verso l'Italia per essere poi venduti come italiani, latte, verdure, vegetali. Quindi non si tratta di finto made in Italy, si tratta di un male che ci facciamo da soli. Poi c'è il problema dell'Italian sounding. Parleremo anche di alimentare con chi rappresenta poi il mondo anche bancario, che deve dare una mano all'industria alimentare italiana. Faremo anche il punto di carattere economico. Mi rendo benissimo conto che nella tragedia dei migranti, a cui Radio 24 sta continuando a dedicare un viaggio importante che accompagnerà il palinsesto, il viaggio sulle rotte dei migranti lungo tutte le prossime settimane fino a metà ottobre, dicevo, mi rendo conto che sul tema dei migranti l'ultimo dei problemi sia il costo economico, visto che il primo del problema è il costo in vite umane e le tensioni politiche che si sono registrate in questi giorni, in queste settimane. Però faremo il punto, perché ormai il piano cosiddetto europeo, perlomeno questa prima parte del piano europeo, è entrato nel suo dettaglio, anche sulle quote da collocare nei vari paesi, i finanziamenti che i vari paesi riceveranno dall'Europa, 6.000 euro per ogni rifugiato che verrà accolto, e nel dettaglio i 160.000 profughi oggi ospitati in Italia, Grecia e Ungheria, i tre paesi, diciamo, coinvolti, in alcuni casi anche travolti da questa ondata migratoria. Dicevo, questi 160.000 profughi, 40.000 andranno in Germania, 31.000 in Francia, 19.000 in Spagna, 12.000 in Polonia, 9.000 in Olanda. E la Gran Bretagna si è impegnata ad accogliere 20.000 profughi siriani nei prossimi 5 anni. Ancora, per quello che riguarda il famoso opt-out, cioè la multa che verrebbe data al paese europeo che non accetta di accogliere i migranti, che non intende partecipare alla ripartizione obbligatoria dei profughi, la sanzione dello 0,002% del PIL. Per dare un esempio, se l'Italia venisse sanzionata avrebbe una sanzione di circa 30 milioni di euro. Nel frattempo, questo però sono ipotesi, perché le motivazioni saranno poi vagliate da Bruxelles. Dicevo, l'Ungheria ha ricevuto 4 milioni di euro per gestire l'emergenza dalla Commissione europea, mentre Orban va avanti, dice che bisogna accelerare la costruzione del muro, servono più operai. Il 15 settembre teme annunciato per la fine dei lavori. Fa anche discutere il fatto, ma ripeto, ne parleremo nella seconda ora del programma, il fatto riportato dall'agenzia di stampa Bloomberg, e cioè l'economista Leonid Bresciski ha compiuto uno studio su quante persone avrà bisogno l'Europa per sostenere il suo attuale sistema pensionistico. L'Europa invecchia, il tasso di ricambio non c'è, è chiaro che questo welfare si regge solo se c'è qualcuno che lavora per i pensionati che invece percepiscono la pensione. Ebbene, entro il 2020 l'Europa avrà bisogno complessivamente di 42 milioni di persone attive. La situazione peggiore si registrerà nel 2050 in Germania, dove vi saranno a quel punto 24 milioni di pensionati contro poco più di 41 milioni di adulti. In Spagna si arriverà a 15 milioni di pensionati a carico di soli 24 milioni di lavoratori, in Italia il rapporto sarà di 20 milioni di pensionati con 38 milioni di lavoratori. Ovvio che questo non vuol dire che la strada unica percorribile sia quella di accettare qualunque flusso migratorio. vuol dire che o tu tagli le pensioni, riduci le pensioni, o alzi i contributi, oppure lì sì, aumenti la base di chi lavora. Non è che esista un'unica opzione. Però, al di là dell'emergenza umanitaria, occorre anche ragionare ogni tanto sui dati, gli elementi di carattere demografico e socio-demografico. Di questo parleremo. La borsa. Beh, la borsa oggi è più che positiva, nonostante un'Asia in chiaroscuro. Perché lo dico? Perché Tokyo ha chiuso male questa mattina, meno 2,43%, perché c'è stata molta delusione dai dati che sono arrivati dalla Cina e anche i dati sul PIL giapponese, che anche se migliorato continua a essere debole, meno 0,3% l'andamento del PIL giapponese. Ha chiuso molto bene invece l'Asia, e cioè Cina e cioè Shanghai e Hong Kong. Perché questo? Per un ragionamento diametralmente opposto, cioè si dice, attenzione, Shanghai ha fatto più 3%, Shenzhen più 4%, perché si dice, bene, il fatto che il PIL sia stato ulteriormente rivisto al ribasso in Cina, meno 0,4% contro il meno 0,3% precedente, il calo, non che la Cina abbia fatto meno 0,4, ma l'abbassamento del PIL, il dato annualizzato con i consumi e le scorte fa meno 1,2%, e questo è il minor PIL cinese, fa propendere molti investitori in Cina e investitori in borsa che il governo cinese adotterà altre misure molto accomodanti e quindi fa comprare in borsa. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, rapidamente le altre notizie in breve. Tra l'altro, visto che parlavamo di PIL, c'è anche il dato di Eurostat oggi che ha rivisto la sua stima per l'area euro a 19 più 0,4%, secondo trimestre l'Italia più 0,3%, Germania più 0,4%, Francia 0%, Slovacchia più 0,8%, Grecia più 0,9%, Spagna più 1%, particolarmente bene Lettonia più 1,2%. Veniamo all'Italia, la Banca d'Italia, tra l'altro oggi c'è stata anche una dichiarazione della commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, a chi le ha chiesto, state trattando con il Tesoro italiano come Commissione europea sulla cosiddetta bad bank, cioè l'ipotesi di una banca brutta e cattiva in cui far confluire tutti i crediti deteriorati delle banche o buona parte dei crediti deteriorati delle banche? Sono quei crediti non più esigibili. Dicevo, la commissaria alla concorrenza ha detto non siamo in alcun modo vicini alla conclusione. Nel frattempo, oggi la Banca d'Italia ha comunicato che c'è una lieve frenata nell'aumento delle sofferenze bancarie, più 14,3% a luglio contro il 14,7% di giugno. Nel frattempo però arrivano anche notizie di altro genere sul fronte bancario. Il Sole 24 Ore, vi ricordo, fu il primo a anticipare proprio venerdì scorso l'ipotesi di una bad bank per alcune, diciamo, banche in particolare difficoltà. L'alleggerimento fiscale del governo è ancora tema dibattuto dopo che il premier Matteo Renzi è tornato ieri sul tema porta a porta, ha detto il 16 dicembre sarà l'ultima volta in cui si pagherà la tassa sulla prima casa, la prima casa tornerà ad essere esentata dalle tasse, uno che ha lavorato 30 anni ha fatto il mutuo, è giusto che sulla prima paga non paghi, sulla prima casa, scusatemi, non paghi nulla. Dopo IMU e TASI arriveranno i tagli di IRES e IRPEF. Il governo ha annunciato, il premier sta anche valutando la proroga degli sgravi solo per il mezzogiorno e anche per quello che riguarda 2 miliardi di credito di imposta. Su questa parte fiscale, sul cosiddetto piano di alleggerimento fiscale. Si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore di oggi, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. La firma è del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Parliamo ancora dell'atteso taglio delle tasse. Una delle nuove priorità del governo è una cosa certamente più che necessaria in un paese come il nostro, che è stritolato dalla pressione fiscale. Eppure in qualche modo continua a far discutere la scelta del governo di voler avviare questo percorso dalla riduzione delle tasse sulla casa, anzi dalle tasse sulla prima casa, sull'abitazione principale. In effetti il premier Renzi non perde occasione per ribadirlo. E nelle ultime ore sono arrivate anche due precisazioni importanti. In primo luogo, Renzi dice che il taglio delle tasse sulla casa sarà accompagnato anche da interventi per alleggerire le imposte sulle imprese, specie per quelle delle aree meno sviluppate del paese, quindi il Mezzogiorno. Una mossa per le famiglie, quindi, ma anche una mossa per le imprese e per il lavoro. Ma altrettanto importante sentire Renzi dire che l'abolizione della TASI sulla prima casa sarà fatto in modo da garantire ai comuni le risorse che perderanno. Questa è una buona premessa per evitare gli errori del passato, quando i sindaci, che dovevano compensare la perdita di questi importi, finivano per aumentare altre voci. I cittadini smettevano quindi di pagare la tassa sulla casa, ma subivano rincari sulle addizionali, sui servizi, sulle tariffe comunali. Le tasse sono alte e vanno ridotte, ma non è possibile ricorrere al solito giochetto di finanziare il taglio di una tassa con l'aumento di un'altra. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E per agganciarmi a Salvatore Padula, non solo non è possibile perché è sbagliato elevare una tassa per poi averne un'altra, come è avvenuto in passato con ICI, IMU, cioè dando ai comuni e agli enti locali la possibilità di recuperare quanto perdevano con le addizionali comunali, è ovvio che si tratta di un gioco delle tre carte che uno Stato non deve fare, ma è anche sbagliato da un punto di vista economico, perché allora vuol dire che non ha nessuna efficacia. Può avere un po' di efficacia elettorale, ma non economica, perché se tanto i soldi che risparmio di IMU li devo spendere per le addizionali, alla fine del mese sempre lì sto. Questo lo dico perché abbiamo tutti i motivi per dare fiducia, quindi finché non viene dimostrato il contrario, in buona fede crediamo, perché il governo ha detto penseremo ai comuni, per cui se l'abolizione di IMU e TASI si realizza però con le risorse date ai comuni in parallelo, allora si può parlare di una riduzione di tasse vera e propria, ripeto, per quanto chi vi parla fosse più favorevole a IRPEF e IRAP che è IMU e TASI. Comunque in quel caso il gioco non è a somma zero. Allora entriamo nel vivo del programma, secondo giorno di Focus Economia in diretta dall'Expo di Milano, dal padiglione di Cibus a Italia. Continua il nostro viaggio nell'industria alimentare ma anche nella cronaca e ripartiamo proprio dal Brennero. E ripartiamo appunto dal presidio, dicevamo, perché questa mattina è ripreso il presidio della Coldiretti al Brennero con tutti i protagonisti dei primi fermi, perché ci sono tutti i vari presidenti delle province venete. Il primo tir, pensate, bloccato alle 8 di questa mattina, trasportava latte austriaco ma era diretto in Lombardia. Poi c'era un carico di patate tedesche da consegnare nel Veronese, dove insomma c'è una coltivazione tipica, vanto di fiere, varie rassegne, carne lituana e ortaggi stranieri con destinazione latina, e Verona ma anche Catania per i magazzini di un importante ipermercato, uno yogurt Val Gardena scritto rigorosamente in italiano ma proveniente dalla Germania e diretto nel Veronese, carote e cavolfiori in confezioni con i colori della bandiera italiana diretti a Catania, con etichetta però rimovibile, pronte a essere spacciate appunto come italiane. Allora, è chiaro che il problema di questi fermi è che stanno a dimostrare in maniera brutale, in maniera empirica, in maniera sicuramente un po' così grossier, che non è che noi, tutti sappiamo che importiamo cibo e alimenti dall'estero. Il problema è che importiamo cose che poi vengono spacciate come lombarde, veronesi, venete, campane, siciliane o laziali. Parliamo dell'industria alimentare, che non è l'agroalimentare solo, ma è l'industria della trasformazione. Siamo appunto al Cibus e Italia all'Expo di Milano. Ne parliamo con il presidente dei giovani imprenditori di Federalimentare. Buonasera innanzitutto a Francesco Di Vella. Buonasera a tutti. Il tema della contraffazione dell'Italian, in questo caso non si può neanche parlare, in questo caso c'è un reato perché tu non puoi spacciare per italiana merce non italiana. C'è però anche un tema più generale che riguarda l'Italian sounding, quindi tutto ciò che non viene detto essere italiano ma assomiglia tantissimo nel nome, nell'impacchettatura al cibo italiano. Potremmo dire che con quello che ne stanno scoprendo gli agricoltori al confine con Brennero ci facciamo male da soli. E poi ci pensano anche gli altri a farci male. Ecco, su questo la lotta forse è stata, e la battaglia è stata solo parzialmente iniziata, e forse ci vorrebbe ancora maggior forza, pur con tutti gli sforzi che sta facendo il vice ministro Calenda. Beh, certo, ecco, l'Italian sounding sicuramente è un argomento fondamentale per l'industria alimentare italiana, e si stima che si aggiri intorno ai 60 miliardi di euro. Ecco, questo sì è una piaga sicuramente, però testimonia anche a quanta richiesta ci sia nel mondo di prodotti alimentari italiani. In questo caso però ci sono, ecco, i colori, i nomi, bandierine, ecco, che richiamano l'Italia, ma il prodotto in effetti italiano non è. Invece l'industria alimentare italiana è ovviamente favorevole alla massima trasparenza, alla valorizzazione in tutte le filiere della materia prima agricola nazionale. Ecco. Sì, su questo però insomma, la posizione di Federalimentare è una posizione, immagino, molto dura su tutto ciò che va a rubare quote di mercato all'industria alimentare italiana. Beh, certo, se si pensa che l'export alimentare italiano si aggira sui 27 miliardi di euro e che l'Italian sounding si aggira sui 60 miliardi, si capisce quanto ancora può crescere l'industria nazionale e l'export dei prodotti alimentari italiani. Che cosa manca secondo lei per far crescere l'industria alimentare italiana? Ma sicuramente non manca la qualità e, diciamo, la tradizione che ha, viene riconosciuta all'industria alimentare italiana e ai prodotti italiani. Bisogna sicuramente fare squadra, fare sistema paese, diciamo. È quello che sta succedendo con il MIPAF, il Ministero di Sviluppo Economico, con l'ICE, con Federalimentare stessa, e speriamo che anche l'esposizione universale che si avvia verso la fine dia anche slancio, ecco, per valorizzare tutte le produzioni italiane. E più nel concreto, diciamo, iniziative che, perché voi rappresentate i giovani imprenditori del mondo dell'industria alimentare, qual è, diciamo, la parte in più? È ovvio che un imprenditore giovane, mezza età o anziano, ha sempre gli stessi problemi in questo paese, ma qual è l'apporto che può dare la componente, diciamo, più giovane dell'imprenditoria di Federalimentare? Sicuramente all'interno della federazione i giovani sono sempre stati considerati, ecco, un po' come gli apripista per quanto riguarda alcuni argomenti in particolare, quindi come innovazione, internazionalizzazione. Noi giovani siamo sicuramente in prima linea per la valorizzazione dei prodotti italiani, lo dimostreremo anche più in là con il 10° forum dei giovani imprenditori che ci sarà 25 settembre qui in Expo. E quindi poi concretamente, insomma, se lei dovesse citare alcuni casi in cui voi siete intervenuti dando anche una spinta o un indirizzo, se si può usare il termine, cercando, immagino, di svecchiare l'industria alimentare italiana? Ma sicuramente uno dei temi più cari ai giovani è quelli delle start-up, per esempio, che dove sono presenti anche numerose start-up nel settore alimentare e sono anche start-up trasversali a volte che uniscono alimentare e moda, a volte alimentare e arredamento. E sicuramente sono idee importanti che poi possono creare delle vere e proprie realtà imprenditoriali più strutturate. Quindi voi volete dare anche un'immagine, perché so che avete invitato anche esponenti del mondo della manifattura inteso come il legno arredo e la moda, cioè l'obiettivo qual è? Far capire che le quattro assi, le quattro gambe, alimentare, automotive vi manca, ma legno arredo e abbigliamento sono, diciamo, non solo complementari ma interagiscono? Beh certo, perché si parla anche delle tre F in questo senso, food, fashion, furniture. Sì, c'è anche cui... la quarta. Sì, ecco, ma in questo caso noi ci siamo concentrati su questi settori perché sono molto interconnessi e bisogna sfruttare anche le sinergie che si creano fra settori. Per esempio ci sarà la settimana della moda a Milano, per cui vogliamo anche sfruttare questi legami che ci sono sempre più spesso, soprattutto fra fashion e food, ma anche con il settore arredamento. Grazie, grazie al in bocca al lupo per il vostro forum qui a Expo, grazie, che è poi la vostra assemblea dei giovani imprenditori della Federalimentare, del mondo di Federalimentare, grazie al presidente Francesco Di Vella. Grazie. E nel frattempo vedo anche molti messaggi sul ci segnalano delle ascoltatrici che dove lavoro, in un magazzino dove arrivano patate dalla Germania e cambiano l'etichetta con patata tipica di Bologna. Allora, il tema può sembrare faceto, ma non lo è, perché già, ripeto, ci fa tanto male l'Italian sounding, cioè l'industria alimentare canadese, americana, inglese, tedesca, che fa prodotti che assomigliano ai prodotti italiani anche nel nome e anche nell'etichetta. 60 miliardi in tutto su 30 che riusciamo invece a esportare di vero cibo italiano. Se ci mettiamo anche noi, poi però insomma, non lamentiamoci se ci mettiamo pure noi a contraffare, a vendere per italiani prodotti del settore agroalimentare che italiani non sono. Comunque andiamo adesso con il metodo, la pubblicità, e poi invece vorrei capire che cosa fa anche il mondo bancario per l'industria agroalimentare, poi la borsa e poi il pacchetto europeo per, diciamo, le quote dei migranti analizzato da un punto di vista economico. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Allora, stanno arrivando da tantissimi messaggi di autotrasportatori, immagino, che segnalano. Dunque, un autotrasportatore mi scrive di aver caricato vicino a Calais in Francia 20 big bag, cioè 24 tonnellate di cipolle di Tropea. Sono più di 20 anni che le carico, in Italia le imbustano solo e le marchiano come cipolle di Tropea. Insomma, è illegale. Poi un'altra azienda, adesso però i nomi non li posso fare perché non posso verificare la veridicità del messaggio, compra un tipo di acciughe in Spagna, le fa produrre in Albania, le fa rientrare in Italia e poi le vende come specialità spagnole. Questo è ancora più complicato. E un altro autotrasportatore che mi scrive: carico radicchio rosso a Liverpool per scaricarlo a Verona, nella terra del radicchio rosso. Questa è veramente la follia. Comunque, ma la follia, lo dico, a parte che è illegale, ma è una follia perché ci facciamo del male da soli, perché se poi tu non riesci più a capire la differenza o non vedi più la qualità, di cosa stiamo parlando quanto a Made in Italy. Comunque, restiamo sulla parte propositiva e sulla necessità che hanno le imprese alimentari, le imprese del mondo dell'industria alimentare, di crescere in termini dimensionali. Ne abbiamo parlato molte volte. Dimensioni vuol dire fatturato, presenza nei mercati importanti, capacità distributiva, commercializzazione dei prodotti. Allora, un aiuto fondamentale deve essere dato dal mondo bancario, dal mondo del credito, e concentriamoci proprio su questo. E si diceva la necessità di aumentare anche i fatturati, robustire l'industria alimentare del settore agroalimentare italiano, come un ragionamento che vale anche per tutto il resto del sistema industriale. Tu non riesci a crescere dimensionalmente se non hai anche l'appoggio del mondo del credito, quindi l'appoggio bancario. Siamo in collegamento con il direttore generale di Carispezia, che fa parte del gruppo Cariparma, che ha una particolare, diciamo, vocazione, chiamiamola così, proprio al sostegno dell'industria agroalimentare. Dottor Carlo Piana, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Ecco, che cosa fate? Voi siete dentro un gruppo come quello Cariparma e Crédit Agricole, che per vocazione e storia ha, diciamo, da sempre un forte interesse per il mondo agroalimentare, quindi l'industria alimentare ma anche il mondo agricolo. Nel caso vostro specifico, state aumentando le erogazioni? Sì, le stiamo aumentando sia sul territorio nazionale e anche su Carispezia. Questa crescita viene da lontano e non sarà frutto di un exploit provvisorio. Devo dire che ci sono delle differenze. In Francia Crédit Agricole è stato fondato dagli agricoltori. In Francia la storia del gruppo è diversa, ma nasce come radice comune in sedi di ampia, di importante vocazione alimentare. Quindi abbiamo messo insieme le differenze, ma soprattutto le conoscenze, e abbiamo deciso di fare un discorso di lungo termine. Non voglio fare spot sulle crescite dei tre mesi, che pure ci sono. Le garantisco che l'impegno del gruppo è partito nel 2010 e sarà confermato negli anni, perché è una, come lei sa bene, è un settore dove non si può pensare a breve termine. E qual è la difficoltà più grossa che incontrate, ma è invece l'opportunità che registrate? Ma la difficoltà più grossa è, mi riallaccio un po' al filo conduttore del suo dibattito, che verte attorno al tema delle dimensioni, è appunto il fatto di come dire, essere in sintonia con la strategia del cliente e quindi portargli le conoscenze, quelle che, di cui disponiamo. Ogni mese pubblichiamo dei dati che sono sia europei ma anche più locali, per evitare di sbagliarci. Quindi abbiamo fatto un approccio di filiera sulle singole, sì, sui singoli settori, carne, latte, vino, e quindi la difficoltà è quella che spesso può capitare che si faccia discorsi di quantità, di scala, quando la scala non è sufficiente. Le faccio un esempio: sì, in Italia la dimensione media delle aziende agricole è di 10 ettari, è un medione che prescinde dai settori, in Liguria in particolare è 2,2. In Europa è 10 volte, ma se usciamo ancora fuori dall'Europa non ne parliamo. Quindi un'agricoltura che si sforza di avere i prezzi di produzione più bassi si scontra con una dimensione proprio produttiva che non glielo consente. Ma mi dico una cosa, ma prego. C'era sempre legato al tema della dimensione un altro esempio che è molto singolare. Sì. Se lei pensa al prodotto più, se mi passa il termine, cool che abbiamo in Italia nel formaggio, posso dire che il parmigiano ci rientra a buon diritto. Il parmigiano è un prodotto che non riesce a imporsi in tema di prezzo, il suo fatturato aggregato è 1 miliardo e ci sono 400 produttori. C'è una sola cooperativa che fa 5 miliardi e in Danimarca un'altra, sempre attiva nel formaggio, che ne fa 12. Un polo aggregante o comunque un consorzio che davvero faccia il suo mestiere in questo ambito non è ancora stato fondato. Senta, ma per concludere, se io fossi un imprenditore del settore agroalimentare, la cosa più importante che andreste a valutare nel concedere un fido, nell'erogare del denaro, cos'è? La dimensione, l'utile o anche e soprattutto la filiera in cui sono inserito e quindi, diciamo, il rapporto che ho a monte e a valle? Direi in particolare questa seconda parte, la filiera in cui sono inserito e il fatto di avere una strategia che sia in linea con le dinamiche di mercato, che voglio dire le condividiamo. La nostra ambizione non è soltanto quella di fare prestiti, ma di portare conoscenza e expertise. Poi sta all'imprenditore svilupparla, condividerla. Se un imprenditore vuole investire in un ambito che noi consideriamo difficile, evidentemente non parleremo la stessa lingua, non andremo d'accordo, ma noi il nostro intento è di portare conoscenza oltre che portare servizi oltre che soldi, che pure sono fondamentali. Grazie anche al direttore di Carispezie, al dottor Carlo Piana. A presto, grazie a voi. Allora, dunque, vedo molti messaggi sui truffatori, la follia, scrive uno, dunque anzi hai voluto la globalizzazione, ecco ti è servito, mangiati il radicchio britannico. No, guardi che io me lo mangio il radicchio britannico, il problema è che non voglio mangiarlo con l'etichetta con scritto radicchio di Treviso, radicchio di Verona. Poi uno è libero di scegliere, magari un ottimo radicchio, anzi, se è vero quello che ci raccontano i camionisti che stanno scrivendo, gli autotrasportatori, evidentemente riescono anche a farlo passare per radicchio trevisano. Il problema è che ci facciamo del male da soli, perché poi facciamo le lotte giuste sulle DOP, sui prodotti, sui chilometro zero, ho qualche altro dubbio di altro genere, sul made in Italy, su quanto è diversa la qualità italiana, e poi siamo noi i primi in alcuni casi a importare prodotti dell'ortofrutta da paesi e marchiarli come prodotti italiani. Ma non so, mi sembra di un autolesionismo totale. Va bene, si fa per dire. 349-238-6666 per i vostri sms. Adesso c'è il traffico, poi la borsa e poi, come dicevo, il lato economico, la dimensione economica della ripartizione delle quote dei migranti, decisa in questi giorni dall'Europa. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Focus Economia. Minuti, andiamo adesso sulla borsa. Giornata, ripeto, oggi che può sembrare strana perché alla fine Milano ha guadagnato l'1,48%, incrementi in linea anche su Parigi e Francoforte, nel caso specifico Parigi più 1%, Francoforte più 1,50%. Può sembrare strana giornata perché appunto aveva chiuso male Tokyo, ma bene hanno chiuso le borse asiatiche, appunto sul ragionamento che se l'economia cinese realmente sta frenando anche oggi altre revisioni a ribasso più del previsto, le iniziative della banca centrale cinese saranno ancora più forti, le iniziative del governo centrale cinese saranno ancora più forti e più accomodanti, come si dice in gergo. L'euro su dollaro a quota 1,118, così diamo le tre cifre. Come sempre il collegamento con Radio Corri sulle 24 ore, Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Sì, i dati cinesi che oggi hanno influito sono anche quelli su import e export, ma insomma il titolo è sempre uguale, la Cina rallenta. Le banche, qui si innesca tutto il dibattito sulla bad bank che ha sollevato come indiscrezione in Sole 24 ore di venerdì, e cioè il fatto che il governo stia pensando a una banca dove far confluire tutto un insieme di crediti inesigibili, cioè di prestiti fatti dalle banche alle imprese che non possono più essere ritornati. indietro, e tra l'altro resi, e tra l'altro pensando in primo luogo ad alcune banche. Questo cosa ha voluto dire per il settore bancario, Andrea? Oggi è stata una buona giornata davvero per il settore bancario, si parla un po' di un'accelerazione in queste trattative che hanno in Bruxelles il primo interlocutore sulla bad bank, come tu sottolineavi, e il mercato che oggi ha dato forza al rimbalzo iniziato ieri ha premiato il settore del credito ad ampio raggio. Monte dei Paschi è stata la migliore, ha guadagnato oltre il 4%, ancora tanta attenzione sulle popolari, per iniziare con Banco Popolare più 2,8% e finire con UbiBanca più 2%. Nel settore finanziario la migliore è stata però Azimut, non per i motivi legati alla bad bank, ma perché ha comunicato i dati sulla raccolta dei fondi di agosto, una raccolta importante, 427 milioni la raccolta netta, sull'anno il saldo positivo per 4,7 miliardi, e il mercato appunto ha premiato questo titolo, è stato il migliore sul FTSE MIB. Allora, questo per quello che riguarda il mondo bancario, tu citavi appunto Azimut, ma anche Monte dei Paschi, Banco Popolare più 2,80, Pop Milano più 2,60, Intesa San Paolo più 2,20%, come la Pop Emilia Romagna, e chiuderei con Generali più 1,70%. Autogrill molto forte oggi, più 4,60%, e anche Fiat Chrysler. Sì, Fiat ha seguito bene l'andamento del settore auto, che oggi è stato il migliore non solo in Italia ma in tutta Europa. L'indice europeo di riferimento ha guadagnato quasi il 3%, e questo ha portato Fiat sulla soglia dei 13 euro, 12,90, quindi bisognerà vedere nelle prossime sedute se riuscirà a ritornare su questa soglia importante. Un'altra società che ha dato seguito al rimbalzo di ieri è stata Autogrill, che si è riportata sopra gli 8 euro per azione, e queste, con il settore bancario come dicevamo, sono state le migliori oggi in borsa. Ancora tra i titoli c'è A2A, che oggi si è mossa bene, più 3,5%. Oggi è una giornata molto positiva per il settore delle utility e per la 2A in particolare. Il Sole 24 Ore è tornato a mettere il faro sulle operazioni di consolidamento nel settore delle società di pubblica utilità, le ex municipalizzate, perché il governo anche qui ha un piano per creare 4-5 campioni nazionali. A2A sarebbe ovviamente una di queste, ma poi A2A anche sta studiando di arrivare al 100% di una società di idroelettrica e termoelettrica e di power, di cui ha già il controllo. Gli analisti che considerano che questo darà luogo a importanti sinergie, e per questo il titolo ha guadagnato il 3,5%. Allora andiamo anche su chi invece oggi non si è mosso così bene. C'è solo un titolo, Telecom Italia, meno 0,80%. Più al palo Tods, meno 0,1%, Ansaldo, Ferragamo, World Duty Free, tutte invariate. Qui pesa sul lusso, comunque uno può fare i ragionamenti speculativi che vuole, però Andrea, sul lusso il rallentamento cinese pesa, poi è inutile girarci attorno. Pirelli meno 0,20, più 0,20, Atlantia più 0,50, Finmeccanica più 0,60, come Unicredit, Eni più 0,70, Luxottica più 0,80, come il titolo Campari. Chiedo conferma, cioè Ferragamo, World Duty Free, Tod's si muovono su quello? Sì, ultimamente, insomma, nelle ultime settimane sicuramente quello è il fattore principale. Non siamo peraltro in un periodo di conti, di semestrali, che possono eventualmente spostare l'attenzione su altri fattori fondamentali, quindi chiaramente il rischio Cina, anche per il peso sui ricavi e sugli utili di questi gruppi derivanti dai mercati asiatici, è il più significativo, e oggi ha frenato dominato questo settore. Per quanto riguarda Telecom, oggi subito i realizzi dopo la buona performance di ieri, peraltro accompagnata dall'approvazione del piano esuberi, quindi dell'accordo con i sindacati sul piano esuberi che era stato annunciato nei mesi scorsi, quindi una notizia di per sé positiva per il titolo, ma questo mostra la estrema volatilità dei mercati in questo momento. Telecom ieri ha fatto una buona performance, subito è tornata a essere colpita dai realizzi, ha perso lo 0,8%. Dove c'è invece realmente notizie di mercato e la fonte è quella del Sole 24 Ore, l'indiscrezione di oggi presente sul giornale, mi riferisco al titolo Pininfarina. Il Sole 24 Ore oggi appunto citava un avanzamento e soprattutto questa trattativa in corso tra la società che controlla Pininfarina, che è Pincar, e il gruppo indiano Mahindra, dove l'ipotesi è che la Pincar ceda la sua quota di controllo di Pininfarina agli indiani di Mahindra. Titolo che è schizzato ed è stato anche sospeso per eccesso di rialzo, Andrea. Sì, ha concluso poi con un 20% di rialzo, il titolo si è avvicinato ai 5 euro, questo è un riassetto che da tempo è sul tavolo e quindi è chiaro che un'accelerazione dove si fa vedere la fine è ben accolta dal mercato. Pininfarina col balzo di oggi ha raggiunto una capitalizzazione di borsa di 150 milioni di euro, i movimenti importanti, anche eccessivi, che ci sono stati durante la seduta di oggi hanno portato Borsa Italiana ad annunciare che per domani non saranno consentiti ordini senza limiti di prezzo, quindi si cerca un attimino di frenare una speculazione eccessiva sul titolo. Molto bene, anche RWE più 5,90%, Salini in pregiro più 5%, Renault più 4,88%, fronte opposto invece Elettra Investimenti meno 6,70%, Safebank meno 4,80%, Poligrafici Editoriale meno 3,60%. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso c'è il GR24 e poi parliamo, ripeto, di quanto deciso dall'Europa in tema di migranti, quote e anche come risorse messe a disposizione. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale, fidati di chi conosci da 200 anni. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dagli studi di Radio 24 qui all'Expo di Milano, al padiglione Cibus Italia, vicino al padiglione giapponese, visto che tutti lo conoscono, uno dei più visitati in questo Expo. Allora, rifaccio la premessa per chi se la fosse persa. È chiaro che parlare dei migranti in questo momento vuol dire parlare di una tragedia umanitaria, di una difficoltà e anche di una tensione di carattere politico che si è generata all'interno dei vari paesi e tra i vari paesi dell'Unione Europea. Oggi ne parliamo anche per l'aspetto che sicuramente non è prevalente, ma riguarda questo programma, l'aspetto economico, alla luce di quanto sta emergendo dal piano europeo, ma anche alla luce di uno studio che sta facendo molto discutere sul bisogno che avrà l'Europa, al di là della tragedia e delle tensioni di queste settimane, di forza di lavoro attiva rispetto al numero di pensionati che si creeranno in Europa. Andiamo con ordine e partiamo dalla cronaca. Continua il flusso, l'avete sentito, delle nostre GR. Solo ieri 7.000 siriani sono giunti in Macedonia dalla Grecia, è un numero record, e da lì proseguono anche a piedi per Serbia e Ungheria. Almeno altri 30.000 migranti sarebbero in attesa nelle isole greche, 20.000 dei quali solo a Lesbo. Domani il Presidente dell'Unione Europea Jean-Claude Juncker dovrebbe annunciare i dettagli del piano. Da quello che abbiamo già capito, il piano prevede che la metà di tutti i profughi giunti in Italia, Grecia e Ungheria troveranno ospitalità in Germania e in Francia. Dall'Italia partiranno 40.000 persone, gli Stati riceveranno 6.000 euro per ogni rifugiato che accoglieranno. Nel dettaglio, di questi 160.000 profughi attualmente ospitati in Italia, Grecia e Ungheria, 40.000 andranno in Germania, 31.000 in Francia, 19.000 in Spagna, e la Spagna ha accettato, ha già dichiarato di aver accettato la quota decisa dall'Europa, 12.000 in Polonia, 9.000 in Olanda. La Gran Bretagna nel frattempo si è impegnata ad accogliere 20.000 profughi siriani nei prossimi 5 anni. Fa impressione invece la dichiarazione che arriva da Berlino, dove la Germania ha confermato uno stanziamento complessivo di 6 miliardi e oggi ha precisato il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, questi saranno soldi, il superamento della crisi dei profughi costituisce un'assoluta priorità e questi saranno soldi che metteremo senza fare nuovi debiti. Pensate che Berlino, cioè la Germania, prenderà 500.000, ha detto il vice cancelliere tedesco Sigmar Gabriel, che la Germania può accogliere fino a 500.000 migranti all'anno per alcuni anni. Nel frattempo il premier ungherese Orban dice che bisogna accelerare sul muro, il 15 settembre è il termine annunciato per la fine dei lavori, servono più operai. Ho visto anche delle battute molto ciniche che mi sono arrivate sulla manodopera, ma insomma, non scherziamo su una tragedia. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento da un lato Adriana Ceretelli, che da sempre è la nostra voce, oltre che la firma del Sole 24 Ore sui temi di carattere europeo. Buonasera Adriana. Buonasera. E dall'altra anche Vittorio Emanuele Parsi, che è editorialista del Sole 24 Ore, insegna relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Buonasera professore. Buonasera a voi. Adriana, mi sembra che alla fin fine possiamo dirla tutta, noi abbiamo spesso criticato la Germania in molti casi e a mio avviso anche a ragion veduta per l'atteggiamento che aveva nei confronti della gestione della politica economica europea e poi del caso specifico della Grecia, ma questa volta la Germania ha un po' spiazzato tutti i partner e con questa posizione ha di fatto permesso che l'accordo sulla ripartizione delle quote si creasse, sono appunto 6.000 euro per ogni rifugiato. Adriana? Sì, sicuramente sì, diciamo che più che avere spiazzato i partner, io penso che ha dimostrato leadership, nel senso che ha guardato sì, più lontano degli altri e ha capito prima degli altri che questa non è un'emergenza ma oramai è un problema strutturale che ci accompagnerà per molti anni, perché la destabilizzazione dei paesi e delle aree da cui questi rifugiati arrivano non sarà certo un problema che si risolve o si liquida in pochi anni. Al tempo stesso ha visto anche, secondo me, oltre che un problema umanitario da risolvere, come dire, ha visto le risorse che un flusso e una tragedia umana di questo tipo può offrire all'Europa, che è un continente che invecchia, che è un continente che ha bisogno di braccia, ha bisogno di chi sostenga il suo sistema di sicurezza sociale, e questa in più è gente che non rappresenta solo braccia ma anche teste, professionalità e quindi e non solo, aumento demografico, e quindi tutto questo secondo me fa sì che la Merkel dica questa volta ci giochiamo anche i nostri valori, che si intendono come valori naturalmente di civiltà, ma anche valori di prosperità, perché l'Europa diciamo li ha sempre avuti e di questi tempi pena a sostenere il proprio modello di sviluppo. Quindi diciamo la Merkel vede in questo un teorema che può diventare positivo se lo si affronta in modo intelligente e lungimirante. Allora, lo dico a scanso di equivoci, diciamo, demi-vierge, come dicono i francesi, di mezze vergini, di verginelle. Non c'è nulla di male nel ragionare, ovviamente partendo dai valori e dai principi, anche sul fatto se queste quote siano compatibili con un sistema economico come quello tedesco e se addirittura non siano non utili, perché nessuno vorrebbe avere i flussi migratori in seguito a una guerra ai corpi che galleggiano in mare, nessuno sta dicendo una follia del genere, ma una volta che questi migranti sono, diciamo, ai tuoi confini e stanno entrando, se questa cosa non abbia anche una, diciamo, utilità, un'operatività in quello che è poi il tuo modello di sviluppo. Arriviamo a questo e poi alla sostenibilità, perché c'è questo studio che fa molto discutere, che stima un'Europa che avrà bisogno nel 2020 di oltre 42 milioni di nuove persone attive e fotografa l'Europa del 2050 con una fotografia impressionante nel rapporto tra popolazione attiva e pensionati. Però vorrei restare sulla cronaca e l'attualità stretta con Vittorio Emanuele Parsi, che oggi proprio dalle colonne del Sole 24 Ore diceva: attenzione, occorre che l'Europa capisca che se il Mediterraneo è un sistema unico e interdipendente, non c'è più una sponda nord e una sponda sud. Esiste il Mediterraneo e i paesi europei devono capire che è il loro confine. E secondo lei, Parsi, con quanto ha fatto, diciamola tutta, la Germania soprattutto, è stato c'è un passo in avanti verso la comprensione che quello che capita nel Mediterraneo non è più un problema solo greco o italiano, o è solo stato fare di necessità virtù? No, io sento molto male, però se ho capito la sua domanda direi di no. Mi sembra che la Germania abbia avuto una visione, per caso, della trasformazione che stiamo vivendo. Appunto, come diceva prima Serratelli giustamente, quello dei flussi migratori non è un problema, non è un'emergenza contingente, è un problema strutturale. Ed è un problema che è dato due aspetti, c'è cioè un aspetto politico, per molto, da un certo punto di vista, legato a conflitti che hanno o mal gestito e contribuito a esacerbare, come nel caso della Libia, o completamente tralasciato e lasciato nelle mani degli altri, come quello siriano. Questo significa che insieme, cioè non noi per conto di terzi, ma noi insieme, i paesi del sud e i paesi del nord, hanno un problema di una gestione complessiva, diciamo così, della sicurezza, della politica di una regione che era al centro Mediterraneo, non è separata dal Mediterraneo. E dico questo non in omaggio a tanta retorica che si è fatta in questi anni sul mare di pace, la terra pesca, ma semplicemente sul fatto che oggettivamente questi flussi di interdipendenza ci dicono che il mare in questo momento più unisce che separare. Dall'altra parte però c'è anche l'elemento, se vuole, della dimensione economica, ma in un altro senso. Mi pare che ci sia un sistema economico che in una regione, in questo emisfero per così dire, mette particolarmente in luce quelle che sono le differenze in termini proprio di beneficiari del sistema economico, e quindi in qualche modo ci sono parti della popolazione di questo emisfero che seguono opportunità economiche che nelle loro regioni non ci sono. Questo va messo in un sistema virtuoso. Quello che diceva lei del mettere da una parte la spinta dei migranti economici, dall'altra le necessità europee di manodopera giovane nell'arco dei prossimi decenni, non ha niente di cinico a mio avviso, ma significa cercare di trasformare quello che è uno squilibrio di breve periodo in un nuovo equilibrio. Questo però è possibile a una sola condizione, appunto, che politicamente la ragioniamo sul fatto che la regione in cui ci muoviamo non ha niente a che fare con i confini dell'Unione Europea. I confini dell'Unione Europea sono una cosa, e possono essere anche fissati qui per l'eternità, paradossalmente, ma l'area di interesse comune in cui ci muoviamo va ben oltre questi confini. Cioè ci sono dei confini politici, anche di accordi interni, confini d'Europa, e poi ci sono i confini o i non confini di carattere demografico e socio-economico, come vediamo molto bene, perché era fin dall'inizio, fin dai mesi scorsi, una follia immaginare che il problema degli sbarchi, dei clandestini o dei migranti fosse solo un problema dell'Italia, di Lampedusa, della Sicilia, di Pozzallo o della Grecia. Vedo che alcuni polemizzano molto sul tipo di migranti, non vorrei arrivare a questo livello, e cioè la Germania prende i migranti siriani, la Gran Bretagna prende i migranti siriani perché sono più formati e preparati rispetto ai migranti che arrivano in Sicilia, che sono dell'Africa subsahariana. In realtà l'Europa parla di quote e non va a distinguere, diciamo, tra provenienza del migrante. Faccio notare che ci sono paesi che non di fronte all'emergenza, come in questo caso, perché è un'emergenza umanitaria, ma nella loro prassi quotidiana, penso all'Australia, danno le quote non sulla provenienza, anche se tutti sanno che se sei europeo viene accolto, diciamo, con più facilità che se non cinese, ma danno la loro preferenza sui profili. E cioè dicono: abbiamo bisogno quest'anno di un certo numero di operai con la qualifica di tornitore, un certo numero di infermiere, di insegnanti e via. E così, e non per questo vengono chiamati razzisti. Dopo il traffico vorrei tornare sul tema che fa arrabbiare molti, ma allora vediamo di farli arrabbiare ancora di più. Lo studio è di Leonid Belshinsky, riportato da Bloomberg, e calcola che oltre che aver bisogno di 42 milioni di nuove persone attive entro il 2020, l'Europa avrà una situazione nel 2050 in cui ci saranno la Germania con 24 milioni di pensionati contro poco più di 41 milioni di lavoratori, in Spagna 15 milioni di pensionati a carico di soli 24 milioni di lavoratori, in Italia il rapporto sarà di 20 milioni di pensionati di cui si faranno carico 38 milioni di lavoratori. Questo non vuol dire che tu debba aprire le frontiere a tutti, però vuol dire che o tu hai più lavoratori giovani che pagano i contributi, o riduci le pensioni da questo punto di vista, o alzi i contributi di chi poi dovrà andare in pensione. Non è che tu abbia solo una possibilità. Faccio anche notare, e poi andiamo sul traffico, che nel 2014 gli immigranti hanno pagato 6,8 miliardi di IRPEF su redditi dichiarati per 45 miliardi di euro. Traffico. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia, abbiamo pochissimi minuti, però vorrei chiedere prima a Adriana Ceretelli, poi a Vittorio Emanuele Parsi, la domanda è identica per ambedue, ma non è che poi l'opinione pubblica europea, vedo molti messaggi, sia così restia anche di fronte a una Germania che sviluppa leadership e che dice attenzione, qui c'è una tragedia umanitaria ma c'è anche un ragionamento da fare sulle prospettive di crescita economica di un paese che ha bisogno di manodopera, che non vuol dire solo braccia. Dico, non è che l'Europa venga poi poco compresa, sia poco capita, perché in realtà noi ci muoviamo, a differenza di altri paesi che citavo anche prima, sempre sull'onda dell'emergenza. Cioè se si fosse fatto un piano europeo per i flussi migratori in anni non sospetti, dicendo attenzione, abbiamo bisogno di persone che facciano i lavori che non vogliamo più fare o che non possiamo più fare perché siamo una popolazione invecchiata, beh, tutto il piano sarebbe stato più credibile. Prima la Ceretelli, poi Parsi. Adriana. No, io credo che comunque sia difficile fare digerire alle nostre opinioni pubbliche l'idea di una convivenza pacifica con i rifugiati e l'ondata che ci aspetta. Prima di tutto perché il nostro continente in questo momento non vive un periodo di prosperità, ma direi di crisi tra il recessivo e il torpido in termini di crescita e in più di alta disoccupazione. Quindi si può ben spiegare che quei lavoratori e quei lavori noi non li vogliamo fare, ma di fronte alla disoccupazione oggi anche molti italiani si riciclano e molti europei si riciclano su lavori che prima rifiutavano. E il secondo problema, secondo me, per cui è difficile oggi fare assorbire questa svolta che è necessaria, perché appunto il problema è strutturale, è il fatto che i governi non hanno pensato né progettato né meditato sullo stravolgimento delle nostre società, sugli equilibri nuovi che dovremo costruire nel governo delle nostre società, che saranno sempre più multirazziali e multiculturali, multireligiose, in società che usavano essere relativamente omogenee. Certo. Oggi la gente non è pronta a questo, e questo è un problema fondamentale. Ripeto la domanda anche per il professor Parsi, che ci aveva perso: non è che la difficoltà a far accettare la pubblica opinione questa leadership, questa assunzione di responsabilità che ha la Germania, sia dovuta al fatto che noi ci muoviamo sempre su logiche emergenziali e non, diciamo, con un piano che prenda atto delle difficoltà demografiche dell'Europa, del bisogno di manodopera per mantenere il sistema di welfare, però lo faccia non quando hai i migranti alle porte, i rifugiati che marciano a piedi, gli sbarchi dei clandestini, i corpi che galleggiano anche dei bambini? Nel caso dell'Italia sì, però nel caso dell'Italia a mio avviso c'è un problema più complessivo, che è quello di una decadenza culturale. Adesso detto così sembra che stiamo parlando del greco antico, ma la realtà e che se lei sente in quale altro paese dell'Unione un premier dà delle bestie a una parte degli elettori e il capo o uno dei leader dell'opposizione dà del verme al premier, si immagini Hollande e Le Pen, Marine Le Pen, se avrebbero mai usato certa terminologia. Allora questa terminologia, questo livello turpe di dibattito politico è lo specchio e la spia purtroppo di una società che è molto affaticata culturalmente, che si è molto imbarbarita, è scesa molto a livello di bar sport e purtroppo è meno preparata, meno conscia, meno disponibile a ragionare. e a prendere atto che ci sono dei problemi con cui bisogna confrontarsi, ti piacciono o meno. L'altro elemento, credo che però vada messo lì, è che la Germania, che oggi mette a disposizione 6 miliardi per accogliere i profughi, nelle parole del suo vice premier, che cosa dice il vice cancelliere? Dice: siamo in grado di sostenere questo flusso e siamo in grado di mettere questi soldi. E c'è, mi pare, nella parte dell'opinione pubblica tedesca, una consapevolezza della solidità economica, dell'affidabilità istituzionale e della capacità di progettazione da parte della società e delle autorità politiche che in Italia non c'è. Gli italiani sono frastornati, gli italiani hanno preso cespugli per anni di fila e reagiscono come un pugile suonato che si gira dalla parte sbagliata semplicemente perché non ha più, non sta più sulle gambe. Una sua lucidità, diciamo. Esatto. Beh, purtroppo sono abbastanza d'accordo con lei che se tu tieni il livello della discussione politica per anni, a livello di bar dello sport, Guelfi, Ghibellini, non ragioni mai sulle prospettive ma solo sull'emergenza, non cerchi di far, non cambiare idea all'opinione pubblica, ma far ragionare anche l'opinione pubblica spiegando che esistono, come diceva lei, delle tensioni che non sono colpa nostra ma fanno parte, diciamo, della vita, e devi affrontarli i problemi, non mettere la testa sotto la sabbia. E poi che i flussi migratori sono una cosa seria, che il problema demografico è una cosa seria, che se facciamo un figlio a testa di media, questa è una scelta privata, individuale, ma è una scelta che ha delle conseguenze. È vero che non ci sono le politiche per la famiglia, è verissimo in questo paese, però attenzione, è tutto da dimostrare che solo con le politiche con la famiglia tu avresti dei tassi demografici tali da reggere il sistema pensionistico che abbiamo. Comunque, tanto vedo che anche gli insulti non sono mancati, a conferma di quello che diceva poco fa il professor Parsi, che ringrazio, così come ringrazio Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles, da Sebastiano Berisoni e l'auguro di una buona serata, domani di nuovo dalle 17 in poi in diretta qui dall'Expo di Milano. Radio 24. La passione si sente.